Siamo 10, si può 10 in cambio. Ui, che freddo, sto morendo dal freddo. Ui, che freddo. Ui. Ah, Giulio, oggi veramente giornata campale. Buonasera. Ciao, ma oggi è caldo veramente. Io adesso sono entrato in questa stanza. Adesso c'è qualcuno per questa. No, mi hanno fatto i tappeti della macchina, perché stamattina l'ho fatto il lavaggio fuori. Loro non mi hanno potuto aspirare dentro perché avevano altre macchine. Dice, se me la lasci, poi vieni tra le tiro. No, io non te la lascio, me la faccio io sotto il tunnel e dunque poi ci penserò per pulirmela dentro. Perché sono andato anche per prenotarmi la revisione per venerdì mattina. Me la volevano fare subito, però io in quel momento non avevo abbastanza soldi in tasca per poter pagare. E allora me la volevano fare per giovedì mattina, no? Giovedì non posso venire perché devo fare la terapia. Allora venerdì mattina alle 9 devo andare a fare la revisione. Anche tu, guarda, io sono andato oggi alle 3:30 e c'era l'incudine del sole, un caldo bestiale, infatti mi sono bagnato la testa, ho preso una bottiglietta d'acqua, me la sono rovesciata in testa, ero proprio grondante alla partenza, no? A quando arrivare lì, che era in via La Polo Torres, no? Sini, le visioni via, ha un nome strano, dove c'è Urospin in via La Polo Torres? Lì. Ci hanno messo 10 minuti d'orologio mio a farla, praticamente ma si è morto, ha aperto il cofano, ha controllato l'alternatore, si caricava, ha messo la sonda dietro per controllare la fumosità eventuale, ha controllato i freni, ha controllato il clacson, non hanno controllato né frecce né stop, poi hanno controllato quello che controllano sempre con accuratezza, sono i fari anteriori. La luminosità, per vedere se c'è un crollo anche della a pieno carico della luce, non so cosa sia, comunque 10 minuti hanno fatto tutto, passata e se ne parla fra 2 anni adesso. Sì, ma è così, infatti fanno in fretta a farlo, no, dove vado io? Vado a Fiori, un'officina seria come si deve, e controllo tutto, anche ci sollevano anche la macchina per controllare sotto, pensa un po'. È un'officina seria veramente, una grande officina, non è quella di Sini, ho capito quale stai dicendo tu, lì dietro dove c'è uno spinga dal punto Torres. No, ma questa è proprio a Predamieda, tra la 24, officina Fiat praticamente, però fanno la revisione di tutte le macchine, anche perché c'è l'officina, c'è tutto, c'è l'ufficio, c'è tutto lì. Anche se danno anche un regalino, tutte le volte che sono andato mi hanno fatto sempre un regalino. Una volta mi hanno regalato i cavi della batteria, i cavi in caso di necessità, no? La prolunga di cavi saranno 5 metri, non so, 4-5 metri. Un'altra volta mi hanno dato una torcia elettrica a LED, un'altra volta mi hanno dato un chilo di olio per motore e così via. La macchina mia è nuova, se la metti in vetrina si può vendere come nuova, nonostante che ha 10 anni, però ha solo 40.000 km, che puoi immaginare, una media di 4.000 km l'anno, per cui è nuovissima, non c'è una vibrazione, non c'è un rumore, non c'è niente di niente, tutto è veramente in ordine. Eia, questa è del 2000, quindi c'ha 19 anni. Però non ha, cioè, problemi sorta non ce n'è, in realtà era tutto a posto. Certo, se dovessero vedere la macchina che non frena, quella è una cosa grave, oppure luci che non funzionano, o può darsi pure le frecce, loro con nonchalance le abbiano controllate, sai, clic, clac, non lo so, perché io ero anche, stavo sempre bevendo acqua fuori, non le budia più. Comunque sì, controllano molto la frenata, le emissioni, le luci anteriori, i fari. Sì, cioè per bocciarla deve essere proprio che ha gravi problemi la macchina, tipo buchi di ruggine nella carrozzeria, cosa che la Opel non ha. Qua la Opel sì, sarà invecchiata, tutta rigata la carrozzeria per colpa un po' mia, un po' degli altri, no, il paraurti un po' segnato dalle toccatine, di brutto segnato dalle toccatine, però carrozzeria non c'ha un punto ruggine, quello è veramente eccellente. Oh, alla mia addirittura non gli manca un punto di vernice, tutta bella verniciata, lucida. Io stamattina sono andato, l'ho lavata e poi sono andato a offerte lottare e me la voleva fare lì sul momento. Però io in tasca avevo solo 50 euro, l'ho chiesto, no, non ho abbastanza soldi, gli ho detto, poi ho fatto male perché io potevo telefonare a mia figlia, ne facevo fare la revisione e nel frattempo mia figlia sarebbe arrivata con i soldi che mi mancavano, perché avevo solo 50 euro in tasca, perché li avevo spesi prima, stamattina stesso. E dunque, però la revisione è 67 e qualche piccioletto, per cui ho dovuto rinunciarci. Però non ci ho pensato, io la verità, infatti quelli anche a casa me l'hanno detto, non potevi telefonare, sarebbe venuta a portarti i soldi, perché lì stesso io abitavo in Punti, lì a Predaniede, vicino, non sarebbe stato, sarebbe stata già anche fatta, perché sono andato che era mezzogiorno, mezzogiorno quattro avrei avuto già finito. Invece non ci ho pensato, vabbè, pazienza, non è così urgente, la posso fare il venerdì. Poi ho visto che avevano molto posto lì, cioè io credo di trovare già macchine in fila per visionare, forse per il caldo la gente non c'è andata. E io ho detto martedì, ho preso martedì alle 3:30 e sapevo che sarebbero stati 37 gradi, ma a me basta bagnarmi la testa, bere e alla fine non è così tragica la cosa. E sopravvivo, non è che... E vabbè, anche questa è fatta. Però si diceva che una volta la motorizzazione erano molto più severi, quando non c'erano i centri di revisioni così privati, erano molto severi. E se non ti funzionava magari uno stop, facevano storie, se non ti funzionava una delle tre frecce laterali, no, per ogni lato, molto più fiscali erano. A proposito, Giulio, hai letto sul giornale che la motorizzazione non ha organico e sono nella cacca praticamente. Sì, l'ho letto, è già da almeno una settimana fa che l'ho letto, lo so. Ma questi fanno controllo proprio generale, no? Altro che la motorizzazione. Però sto dicendo, questo è un'officina come si deve, con i contraffondi. Dunque no, non c'è niente da... Questa è proprio un'officina doc, veramente. Non è come quelle solite officine da artigiani che sono appena campati in aria così per chissà con quale motivo. Questa è proprio un'officina seria, è un'officina della Fiat, se ti puoi immaginare, proprio Fiat, però la gestisce questo Fiuli con tanto di officina in caso di necessità, perché la puoi far imparare lì stesso la macchina, se per caso ci fosse qualcosa che non passerebbe al collaudo, ma la mia di questi problemi non ne ha, perché ripeto, funziona tutto al 100% e in tutto e per tutto. Se te lo sto dicendo, non c'è nemmeno una vibrazione, non c'è, gli ammortizzatori sono ultimi, la frenata è non è ultima, è eccellente addirittura, i fari poi non ne parliamo, tutto a posto, è nuova, se ti sto dicendo che la macchina è nuova, per cui figurati, meglio di così. Se non passa la mia non passerebbe nessuna macchina al mondo, guarda, te lo posso garantire questo. Tu pensa che la volta scorsa, 2 anni fa, mi aveva detto che gliela vendevo, il meccanico che fa il collaudo, che fa la revisione, se gliela vendevo, no, assolutamente no, questa me la tengo e ne avrò, suppongo, per tanti anni. Capito, Marco? Vabbè, dai. Io l'altra invece, l'altra macchina, cioè io ne ho due macchine, io ho anche la Ford Fiesta, no? quella è da reali chilometri, quella è a 170.000 chilometri, ma quella cammina molto anche perché la usa mia figlia molto, per cui quella però ha 14 anni, 15 anni di vita. ma è sempre un orologio, perché è sempre bella controllata, tutto a posto, fatti tagliandi, tutto quello che necessita, insomma, la macchina per essere sempre in condizioni ottimali. Eia, una curiosità, Giulio, ma tu di notte la lasci in garage o all'esterno? No, è all'esterno, la mia è all'esterno, non è in garage. Perché avere il garage fa molto, perché chi la usa, cioè chi la tiene in garage, no, la usa solo quando esce, poi la macchina alla fine è riparata sempre da sole eccessivo, da freddo eccessivo, da grandinate, capito? Cioè vuole molto, vuol dire molto avere un garage dove lasciare la macchina quando sei a casa, vuole dire molto, infatti la carrozzeria dura di più, prende meno ruggine, è sempre meglio. Cioè noi in realtà ce l'abbiamo il garage, ma è un garage un po' stretto da entrare, è un problema entrare, la moto c'è nel garage, lo scooter, lì ci poteva entrare una Fiat 500 vecchio tipo, una Smart si può entrare, però già con quella è un problema. Poi sono state fatte modifiche al cortile, praticamente hanno rovinato il cortile, hanno fatto delle opere che non andavano fatte così, hanno rovinato tutto in quel cortile condominiale, vabbè, lasciamo perdere, se no mi tocca inveire. Bene, va bene, adesso non è... Comunque, macchine diesel, boh, io vedo certi diesel fumare, proprio fare fumate nere che ti annebbia la vista, che quelle non dovrebbero passare, no, non possono passare, magari fanno passare anche quelle, son sicuro che le facciano passare. Sì, quelle officine così, da 4 soldi, quelli basta che li paghi, già te la fanno passare, ma sono officine a 4 soldi, ma quelle officine che dove vado io non è così. Quella di fare cose per come si deve veramente, e secondo me è anche importante quello, perché quando tu vai a versare la macchina e quando una persona vede, uno che se ne intende naturalmente, ma anche un concessionario che vede la revisione fatta da una officina autorizzata di quel tipo, la macchina se la prende con più soddisfazione, con più coraggio, perché dice, ragazzi, no, e questo è a posto, quell'officina che queste cose non le fa. Loro fanno i camuffi quando fanno le altre officine, quelle da 4 soldi, dai, diciamo, quelle officine lì non sono affidabili. Se le fanno lo stesso, perché a loro interessa il castare i soldi, ecco qual è il problema. Ma dalla officina Fiat non è così. Eia, ma quella non mi è sembrata. Comunque tanto è tutto, credo, collegato, ci sono telecamere, collegamenti, la strumentazione è collegata alla motorizzazione, così sapevo io. Poi anche quelli hanno il meccanico, non è che lei è alla selvaggia. Infatti io sono andato preventivamente con la macchina, ho detto controllatela, provatela. Ho chiesto per le gomme se andavano bene, sì, ma sì, ho sentito gente, non da loro, ma c'è gente che è andata a fare la revisione con le gomme lisce, e gliel'hanno passata, no? Non dico nella mia officina, ma da altre officine, c'è gente che va con i buchi di ruggine, buchi miei grandi quanto un pugno, e gliele fanno passare, e così non è, vabbè, non è corretto, perché poi succede qualcosa, no? Interviene la stradale e dice, ma questa macchina non poteva passare la revisione, poi indagano, vedono che l'ha revisionata e passa casini già capito. Fiori me lo ricordo, ma una domanda, ma Fiori il grande, io quello lo ricordo anni fa, Fiori c'era un signore che era di una certa età, quello era morto, sì, chi c'è il figlio adesso? Ah, non lo so, c'è tutto un ufficio con degli impiegati, non è nemmeno uno, sono due o tre impiegati, ci sono, appunto, e poi c'è questo ragazzo, Guglielmo Paolo, che è molto preparato anche in fatto di revisione. Poi sempre lì, tutto quella, è un capannone grande, no? Però è un capannone abbastanza grande, perché c'è il settore dove si fanno le cose, i controlli della macchina. E poi c'è l'ufficio in disparte, E poi c'è un'officina, lo stesso autorizzata, grandissima, è un'officina Fiat, non è un'officina così da quattro soldi, è un'officina come si deve. Sì, lo so, ci sono queste officinette così, piccole artigiane, quelle che hanno quattro chiavi e due bulloni in officina, che quelli pur di incassare i soldi se la fanno passare, anche se la macchina magari non ti accende, un farla mio, sai, lo fanno perché devono incassare, e quelli hanno bisogno di incassare, ma fiati non è così, la fiati non deve fare niente della tua lampadina, se non ti funziona sarai felice, se la cambiamo e te la fanno pagare, te la fanno loro stessi, te la fanno pagare, oppure che so io, le gomme sono lisce, no, non passa, o metti le gomme nuove, se le mettiamo noi, oppure non passa, e così funziona lì. No, già io, guarda, nel cofano avevo un parco di lampadine di tutti i tipi, i fari, le luci di posizione, luci targa, luci frecce, luci stop, sai quello più forte, cioè lo stop che è più forte delle... C'avevo un parco di lampadine, no, comunque infatti io vado prima, chiedo prima, cosa ti volevo dire? Aspetta che ho perso il filo, è sempre attinente al discorso, e comunque... Ah, che un amico, no, di tanti anni fa andava da Fiori, no, solo che un po' si era buriato, no, perché andava a revisionare la sua Fiat Regatta, e questo che ti dico io, Fiori il grande, credo fosse morto, no, era, mi pare, un signore in occhiali, dice, ah, ma le conviene revisionare, dice, non lo so, dopo tutta questa macchina ha tanti anni, insomma si era buriato di queste considerazioni, no, quasi come se fosse cacca, la macchina era postissima, poi insomma lo voleva spingere un po' a cambiare macchina, magari a pigliare un'altra Fiat, e non ci è più andato dal giorno perché si stava scocciando di queste avance, no, e questo anche denigrare la macchina, la Regatta dell'epoca, non era vecchissima nemmeno, era sì di qualche anno, ma caspita, era tenuta, ma c'era da dire, in perfetto stato, e lui un po' spingeva quasi per farla cambiare. Beh, dal giorno non c'è più andato. Ecco, registrato, ecco. Sì, beh, ha fatto bene, se non mi andava di farsi scocciare da quello, ha fatto bene a non andarci più, certo. No, qui c'è un giovanotto, c'è uno anziano, c'è un giovanotto che è dipendente di questa officina, qui ci sono gli impiegati, e poi ci sono i meccanici che anche qui sono dipendenti, per cui è tutto una tattuglia. Va bene, comunque nella strada 24 è Fiori Antonio, mi sembra di nome, officina Fiori Antonio, Fiat, autorizzata Fiat, strada 24. Avanti un break. Basta la salutazione circolare, ciao Giulio, ciao Marco, riprendi Giulio. Ciao Graziano, scusami, mi è Graziano, mi è Marco, adesso l'abbiamo tanto senza sentirlo, cazzo, cos'è che hai Graziano, perché sei il rauco? No, la saliva, sta solandomi, vi ho sentito, nel 23 ci sono tutti parati a Caramaccio, e beh Marco. Ciao Grazia, dopo tanto, beh, come va? Hai visto che è freddo oggi, porca miseria, io ho anche la pelliccia, mi sono messo la pelliccia di bisone. E anche io qua c'è il riscaldamento, e tutto rimasto, tutta la vita un po' in me, aria fredda, e tutto rosso acceso, come diceva tu, dopo il film volando, è un corvo. E si sente un po' che sei rauco, ma lo fa anche a me, perché scemo io, Giulio, sai cosa faccio? L'ho fatto anche nel pomeriggio all'inizio, poi l'ho spento subito. Io prima di partire con la macchina mi sono bagnato la testa, no, con la bottiglietta. Poi per raffreddare in fretta la macchina, ho messo il clima, però già mi stava prendendo male, allora subito l'ho spento e ho preferito aprire tutti i vetri. Se no, testa bagnata, più clima, ti sciavideggia. Certo, sì. Però sì, già lo credo. Con l'aria condizionata della macchina bisogna stare molto attenti. No, io quando l'accendo, non l'accendo quasi mai, però quando l'accendo l'aria condizionata, metto i depressori, si girano e li metto di fianco da una parte e dall'altra, in modo che non mi venga diretta in faccia. Perché così se no si frega, non va bene. E poi non è che la metto al massimo, mi basta rinfrescare appena. Se ad esempio la macchina è parcheggiata al sole, la accendo 5 minuti solo per prendere con la temperatura piacevole dentro la macchina e basta, ma niente di più. Non è che se devo fare un viaggio lungo la lascio sempre accesa, no, assolutamente no. In quel caso lì preferisco aprire i vetri. Faccio un nuovo riapro, magari attacco il raffreddamento, lo attacco inizialmente così, ma 5 minuti e dopodiché lo stacco e apro il vetro, proprio perché voglio che si ristabilisi la temperatura normale, dai, quella solita che c'è dentro la macchina quando c'è quel vetro aperto. Grazie, e allora cosa vuoi racconti? Cosa potete racconti? Ieri avevo un'altra visita alle colostre e l'ho fatto, adesso al 2 dovevo andare dal pulmone, volevo portare quella visita e il cardiologo deve farla a novembre, andrò a vostro arrivo. Cosa fai? Niente, se prima che si tram in casa o scende in campagna e lo fa fare, tutto che fare. E nulla, mi sto provando questa radio qua, com'è Giulio? Com'è? Diciamo che non è la tua voce, dai, non è la tua voce solita. Già si capisce abbastanza forte, già è forte come radio, per cui però come modulazione non è quella voce bella squillante che hai tu, è un po' più corposa, dai, tutto lì. E allora è molto clara, quella della tua zona, quella del negozio dell'alimentare che c'era lì nella tua zona, ancora c'è quel negozio, il marito, il tore, eccetera. No, il negozio era chiuso da tanti anni, era a casa sua sempre, oppure in campagna, ce la portavano i nipoti, il marito, era malata, ultimamente era buttata. E è andata aperta ieri al funerale in chiesa, c'era il funerale alle 3 e poi alle 4 ce n'era l'altro di un tipo di Santa Maria di Pisa di su, che è morto, che quello gioca. E cosa vuoi fare? L'anni avvirano in giugno, poi lo abbiamo malattia. E di qua tu dici che è andata da vera? Sì, Clara era molto grande, Clara io penso che avrà avuto almeno un 85 anni più o meno, io la conosco da quando ero bambino, perché abitavamo prima a Sassa di Vecchio, abitavamo a 20 metri l'uno dall'altro, la sua famiglia con la mia famiglia, abitavamo lì, tutti gli altri fratelli, Costanzo, Nino, eccetera, eccetera. Vabbè, Nino mi sembra che sia morto già da anni, Costanzo già è ancora vivo. Il padre era idraulico, anzi, era puntanelli, così si diceva una volta, che lavorava per il comune, e dunque era dipendente comunale. Anche Costanzo ha fatto l'idraulico, anche Nino ha fatto, lui non ha avuto un po' gagana, di continuare a fare l'idraulico e hanno fatto altre cose. Sì, Clara la conoscevo benissimo da quando era ragazzina, proprio ragazzina, anche se lei sarà stata un 6-7 anni più grande di me, però ci siamo conosciuti abbastanza bene. Insomma, da sempre la giovunici, dammi poche parole, grazie. Vabbè, mi dispiace perché è una persona che conoscevo, era malata poi da tanti anni, poi già lo sapevo che il marito appunto le dava la mano perché ne aveva bisogno, eccetera, eccetera. Comunque, il tempo suo era arrivato. Avanti Marco sta mangiando, grazie, riprendi. Non l'ha perso mai quel vizio di mangiare adesso. 89 anni che aveva, mi sembra, ho preso il giornale ieri, c'è anche la foto in giornale, e vabbè, butti già è da una, ha sacrificato, ma già sta va bene, e come dal resto del tutto era a posto. Già se la conduce, va, ti sì, quanti anni aveva, non ho capito bene, 89 o 79, cosa hai detto? Mi sembra 89, mia moglie lo sa di preciso. No, ma mi sembra che abbia detto così mia moglie, 89, adesso non c'è, se va bene glielo chiedo. Sì, ma è possibile, sì, grazie, è possibile che possa aver avuto 89 anni, certo, te lo sto dicendo, io era grande, lei era già una signorina grande quando io ero ancora piccolino, se puoi immaginare, abitava 20 metri da dove abitavamo lui, 20 metri. Lui abitava nel palazzo di Taras, non so se tu li hai conosciuti, Taras e Macellai, eccetera. No, abitavano in quella stessa palazzina. La palazzina era di Taras, loro abitavano su, nel piano su, ultimo piano, e Taras abitava nel piano primo. Ma in quel periodo, penso probabilmente negli anni 1950, io mi manco da Sassarivecchio, mi manco dal 1953, non è da oggi che ci manco, per dirti, oh, grazie. No, io sono di fronte qua, la casa sua, l'appartamento di loro, sono proprio di fronte dalla parte del salone, della piazza, in direzione, sono di fronte, cosa so, 100 metri, e già vedevo sempre, ce n'era sempre gente, dai, festicciole già ne facevano qua anche, a casa sua, no, alla fine, era curita da tutti, mi danno i buti, va bene, non l'hanno mai lasciata da sola. Beh certo, era una bravissima persona, mi capita, io lo so, ma tutta la famiglia erano persone bravissime, a voi già, alla grande, anche poi il marito. Il marito quando era giovane faceva, prima del negozio, prima di avere il negozio faceva il muratore, faceva, già me lo ricordo bene. Adesso con 60 anni se sta vedendo, però per dirti, già me lo ricordo bene, anche se non dovessi vedere oggi lo riconosco benissimo, anche se dopo tanti anni uno si trasforma se vogliamo, no? No, ma già lo vedo sempre, si affaccia anche lì nel terrazzo, e già lo portano i putti, sta comprando le ture nei paradini putti, a Puglia, e così lo può andare, cosa vuoi fare? Tutti dobbiamo andare prima o poi, ma è così, io c'avevo la vista ieri, perché l'ho ricoprato da poco, dopo 17 giorni c'ero all'ospedale, ho capito, grazie, io ero ricoperato un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, da circa, oggi ne abbiamo 25, sicché all'incirca ne sono uscito un mese e 10 giorni fa ne sono uscito, un mese e 9 giorni fa ne sono uscito io. Anch'io ero ricoverato, ma sono stato una settimana, sono stato, però adesso sto facendo la terapia e mi tocca una volta alla settimana, il giovedì, infatti dopo domani devo andare di nuovo a fare la terapia e dopo, però diciamo che grazie a Dio già sto bene e speriamo di continuare a stare bene, cosa vuoi ci dica, grazie alla vecchiaia. La giacca cominciano a sì, mano per il tempo basta, poi una volta che hai finito di lavorare picchi ancora, ma che ne scene di bisso in traccia, a me da me, da un malanno me ne sono scegliere, a me e sono furosi, e polmoni, e cuore, purtroppo è così, oh grazie, e cosa vuoi dire? La vita tante volte è crudele. Sì, lo so che prima o poi si muore, è ovvio, si muore, quello lo sappiamo benissimo, ma per dirti, no, solo che non ce lo meritiamo dopo aver fatto tanti anni di lavoro e di sacrificio, ammalati a una certa età, quando sarebbe il momento di godersi quei pochi anni che ti rimangono, per dire, no, invece no, le malattie di rifugi, cosa ci vuoi fare, grazie, ma non sarà così tragica, speriamo. Cosa puoi fare, ma è così, va proprio, sempre che uno, quando viene travaglia di pulizia, deve morire fa appuccia, volata, si chiede a là, tutto va, ma per carità, cosa vuoi fare? Mi dà poco, ma se su me già fatto, un amico che ha lavorato anche se mi ha preso il comune, è andato a ritirare, l'aveva recuperato, Giulio e Muccio. Purtroppo così, oh grazie, è Giulia di dentro, di Giulia di Nessini, purtroppo è così. E tu perché lo sei recuperato? Sempre per la sua età tua, no? O per il percorso, per il respiro, per il fiato, ce l'hai sempre la bombola, sì? O l'hai potuta eliminare? No, ce l'ho sempre, il bombola grande e la piccola. E le sufficienza respiratoria, mi si era chiuso un polmone, era bocca a bocca, era viola, e mi è andata a dare. E tre parti mi sono giunti, non so tanti, no, ma ho scampata già 4 volte. Ma tu fumavi quando eri giovane, quando eri ragazza, fumavi tu? Quando ero giovane sì, da ragazzino già ho sempre fumato, poi quando ero ottica me ne fumavo pure 2 macchette e mezzo. Ma poi a me mi ha rovinato il falegname via, il coso della polvere, la verniciatura, la trasone non si pianta, non ne funzionava, ma carruccio non si pianta. Nei macchinari non c'erano scusi proprio avanti per aspirare la polvere quando tagliate le medie e anche l'altra legna. E poi a verniciare non avevi né mascherina né nulla, che sarà verniciatura. Il pannello si l'aveva venduto, il pannello dopo spruzzati e c'era l'acqua sotto, si l'aveva battentinare l'animale, e a te tutto qui ci me l'aveva gravato, e per noi c'avevi così. Purtroppo grazie a così, è così, la vita è crudele tante volte, grazie a... Non si laga in faso, no, non si laga in faso. Quando si accanisce la sfortuna su una persona, si sta male veramente. E quando due figli sai male lo stesso perché è sempre col pensiero. Purtroppo è così, grazie. E ma guarda che tu hai un carattere d'oro, che certe cose, anche se ce le hai, non ti preoccupi più di tanto, anche se so benissimo che il problema ce l'hai e il pensiero ce l'avrai per tanto, però è un carattere d'oro veramente, quello bisogna riconoscere, l'ho sempre detto io. Ma lo stava a salvare Gesù Cristo, oh grazie, stava a pure bene, però noi non abbiamo fatto male a nessuno, per cui speriamo bene. Brava, io manco ci penso, tanto ci devo viaggiare, dunque, e cosa mi preoccupo io, ma è così, vuol dire che è così, è stato non è già minuta, che beata, para, cioè, sempre in uscire, dunque, io non posso essere una fenomena, tutti vuol dire, di chi è, avrà giorno, e cosa devo fare? No, non mi preoccupo più di tanto. Lo so, quello è un buon pensiero, quindi è un buon modo di comportarsi, così lo so, d'altronde coraggio, se vogliamo, però non sono tutti che vogliono carattere duro, e cosa vuoi fare? Oh yeah, la vita che ti serve quelle altre. Vabbè, comunque anch'io nel giro di un anno, così sono stato ricoverato due volte, non un anno, due volte, nel giro di un anno, un'altra volta sono stato ricoverato 10 anni fa, e sono avuto già 3 volte che sono entrato in ospedale, boom boom, e vabbè. E cosa volete dire, grazie? Se hai fatto male cristiano, volutissimo. Interessante riuscire a uscirne e a raccontare sempre quello che è importante. Ebbene, che non è 23 come sta funzionando, grazie. Sono all'ordine di ogni anno, una volta, due volte, sento all'anno, numero pure le mancandaie, solo, è giusto domenica, no, ma è successo di viola, ma non lo vedete di viola, ma ce l'ha preso, mi sono sento di giusto, ma portami se lo viola, e non ci volevo neanche andare a passare a finire. Il 23, a figlio mio, adesso con la scusa che hanno ingrandito il cimitero, si sono tutti varati. E tu parli su battenti di loghi, Luigi? No, bene o male, tutte le sere già che siamo, non è che ci saranno grandi riunioni di famiglia, per così dire, però li avviseremo. Sempre verso di chiusa e avviseremo, dai, all'incirca verso le 6:30, le 6, tante volte. No, oh, tante volte anche prima. Dipende dai giorni, solo che amava però il suo leone in carriera e si andava a mare da ieri, non ha capito come fanno. E va bene, poi ogni tanto c'è la propagazione, qualche collegamento ce lo facciamo ugualmente. E ciccia. E il PMR non lo si idrata, su questo canale PMR non è già tempo. Magari sul 23 ogni tanto è più PMR che cosa, che baracchino. Mi ha dato la sua attenzione anche Marino già si fa sentire ogni tanto, non spesso, però ogni tanto già passa da queste parti, su questo canale si fa sentire. Ogni tanto già lo sento sul PMR, anche sulla 27. No, ma poco fa ero sul 19, c'erano degli spagnoli e stavo modulando con loro, capito? E mi faccio tutti i canali, dopo troppa gente mi fermo, assai mi fa. E fai bene, grazie, e tanto cosa mi fai? E poi i nomi si fanno vedere di tutto, mette chi in questo canale si fanno vedere solo le stesse cose, sempre le stesse cose, dai, di rubita si fa vedere dai chili, di pensione si fa vedere, almeno qua in questo canale qualche discorso più largo lo facciamo, dai, qualche USO più largo già lo intavoliamo. Speriamo fosse finito di mangiare, Marco, sbagliato hai. Sì, era l'ascolto. No, io addirittura ho mangiato prima di entrare, no? Abbiamo corretto un po' l'orario per quanto sia già tardi, no? Mangiare alle 6. Abbiamo corretto un po' l'orario, quindi ero andato in bagno, mi sono assettato, ero andato in bagno, dovevo andare in bagno in fretta. Perché col caldo sto bevendo di più e quindi la vescica si riempie in fretta. E tutto qui. Cosa volevo dire? Niente, no, stavo facendo un aggiornamento di Huawei importante, che non arrivavano aggiornamenti da un bel po', adesso è arrivato uno bello grosso da 3 giga e mezzo, quanto è 3 giga e fa tutto da solo, insomma, io devo solo guardare e vedere che non salta in aria niente. Ho capito, ma di quelle cose se ne mandano continuamente, a me mi riempiono un telefonino tutto di notizie, infatti io non faccio altro che le do lo sguardo e poi cancello sempre, perché se no se ne vanno i giga, se ne vanno così. Anche, tanto più che ho un telefonino nuovo anche tra l'altro, che il numero magari è rimasto sempre quello, però è un telefonino che ha più giga, eccetera, eccetera. Per cui però ho detto di cambiare di nuovo compagnia telefonica, perché mi sono reso conto che tante volte questo posto mobile dà fastidio, cioè tante volte prende il collegamento, non capisco per quale motivo, a meno che non stiamo facendo dei lavori, adesso. Prima avevo Wind, avevo su questa scheda, perché io ne ho due dei numeri, per cui, però gira gira ritorno a Vodafone, e non se ne parla più, che l'altro è Vodafone, perché Windy l'avevo tolto, perché Windy si mangiava i soldi senza utilizzarlo il telefono. Allora mi sono fatto questo sistema qua, questo contratto con le poste, ma ce l'ho già all'incirca 2 anni più o meno, e pago 30 euro ogni 3 mesi, posso fare tutte le telefonate che voglio, tutte gli sms che voglio, eccetera eccetera, e la cifra è sempre quella, praticamente 10 euro al mese, però lo pago trimestralmente ogni 3 mesi. Ma adesso che sto per scadere, diciamo così, la scheda, prendo e cambio di nuovo e vado su Vodafone, cioè nella stessa compagnia che ho l'altro telefonino, perché l'altro telefonino, quello di prima, quello di sempre, quello è Vodafone. No, no, non mi convince più di tanto Poste Mobile. Tante volte mi telefonano, mi squilla 2 volte, 3 volte massimo, non faccio il tempo nemmeno a rispondere, che dice ma sono 4 ore che ti sto telefonando e non rispondi, e dammi il tempo di rispondere, no? No, se addirittura dice che era intervenuta che Poste Mobile è entrata in funzione la segreteria, se io non ho mai messo segreteria, eppure così, ed è per quello appunto che dicevo, decido di cambiare di nuovo o compagnia telefonica o Marco. Vai, grazie. Ah, io nel telefonino ce l'ho a 3 e andare, invece in quello stesso in casa c'ho Vodafo, c'ho internet, è tutto compreso, e ogni 2 mesi pago 61 euro, 62 là, ogni 2 mesi. Invece al telefono pago 12 euro e ce l'ha 3, ma andava bene la 3, e ti faccio un sacco di anni. Ok, grazie. No, anch'io ce l'ho internet sul telefonino, ed è per quello appunto che mi mandano tutte le notizie giornalistiche, eccetera. Tipo che so io tutto l'aggiornamento dello sport, tutta la politica, tutte le notizie del gossip, tutte queste cose già mi arrivano, e devo dire che lo uso, io ho il giornale tutti i giorni, lo leggo, sia la Nuova Sardegna che tutto sport, tutti i giorni io lo leggo. E ne pago 30 ogni 3 mesi, dunque 10 euro al mese. Però, ripeto, tante volte faccio il collegamento, magari sta anche mezza giornata senza essere attivo. E allora è quello che mi dà fastidio. Fortunatamente io ho l'altro telefono, se mi serve posso telefonare con l'altro, oppure posso telefonare da casa, col telefono di casa. Ma per dire, se tu mi fai un contratto, tu mi devi tenere sempre in collegamento, non mi puoi ogni tanto, per ragioni vostre personali, che ne so, l'impianto non mi funziona, annullarmi il contratto, no, non va bene. E allora faccio il giambo. Di nuovo cambio, fra un po' dovrò rinnovare la quota e non la rinnovo e cambio di nuovo, cambio il gestore. Avanti Marco. Io Iliad l'avevo accantonato, quello di WhatsApp, perché fuori prende, in casa non prende, perché ho ripetitori tutti lontani da dove abito io, sono in mezzo a un triangolo delle Bermude, in poche parole, no? E allora mi sono buriato, poi sai, avevo 2 cellulari, 2 schede, c'è due smartphone, due schede, quindi una scheda l'ho accantonata e ne uso una, ne ricarico una di scheda e boh, e mi uso uno smartphone e boh. Sì, no, io ho addirittura due telefoni, telefoni tutto della prima decina, per questo. Lo smartphone nuovo ce l'ho da poco, cosa c'ho? Ce l'avrò se no 3 mesi, lo smartphone nuovo. Ho anche l'altro, funzionante, sempre, perfetto, no, non ci sono problemi. Ah, poi i telefoni ne ho una decina, anche di più forse, di 10, con tutte le sue attrezzature, tipo caricabatterie, eccetera, eccetera. Vanno funzionando tutte, però vanno messi da parte, si rinnova e cambia sempre. Tu pensa che ho addirittura quello grande di una volta, proprio quello di 20 anni fa, anche di più di 20 anni, per dire, 20, forse 25 anni fa, forse, senza forse, ma anche quello che lo chiamavo io la cabina telefonica, perché è grande, no? Con l'antennino, si tirava fuori l'antennino, però funzionava bene, e funziona ancora bene, caspita. Intanto ha uno squillo fenomenale, che sembra il telefono di casa, se sembra, ha uno squillo che ti spacca le orecchie quando squilla, ma è troppo grande, no, ormai non va bene, non va bene. Anche se oggi si può usare lo stesso, perché basta usare il borsello, oggi di moda il borsello, lo puoi mettere dentro e funziona alla grande, perché funziona bene. Quando è dentro il borsello non ti dà il fastidio. Il problema è quando te lo metti in tasca, ma se hai il borsello non c'è bisogno di metterlo in tasca. E così funziona alla grande. Ecco quello che intendevo. Va bene, avanti, grazie. Anche io però ho fermato, ho quello avuto anche, però se voglio lo uso lo stesso, però oramai sono un po' di moda e non andare in pista, e funziona, no? Che ho 10 minoreggi brutti, nocchia, a quelli, ma che li ho tutti completi, nuovi, deve essere stato le sue, però oramai non sono più di moda, no? Non sono i display, non vanno poi di nulla, poi vabbè, uno che non è a tutti di internet, se ha dei altri giorni, se lo usa, qualche giorno già ce l'ha ancora, ma ho visto che lo usano gente anziana proprio, che ce l'hanno ancora. Però se del resto l'altra gente, pure il cacanziano già avvirava, uguale su internet, e già arrivato questo, la paesa. E purtroppo la tecnologia è così, come i televisori, purtroppo un televisore con tubo cattolico, non vedo più, si è giusti rampati. Ora mai sono sempre più finiti i televisori. Vero Marco? Sì, c'è un'inflazione di telefoni. Anzi è stato un grande passaggio da quelli a tasti a questi smartphone che fanno di tutto e di più, di tutto e di più. Qua ha aggiornato tutto, vediamo se sta riavviando, se si riavvia, dai. Eccolo che parte, è un grosso aggiornamento, era 3 giga, 64, infatti è da un po' che lo aspettavo questo aggiornamento. Aspetta un attimino, arrivo subito. Ok, il mio era 36 giga, mi sembra, sì, 36 giga, grazie. Dunque, il mio addirittura si può aprire solo a contatto con l'impronta digitale, no? Infatti se solo con quel dito posso, se cambio dito non apre, devo aprirlo sempre in contatto, sempre con lo stesso dito, perché è stato appunto regolato con quell'impronta di quel dito, con l'indice, me lo sono fatto fatto fare, non è che l'ho fatto io, l'ho fatto fare la mia figlia. Però può aprire anche con uno schema, posso aprire toccando l'interruttore e poi con uno schema che so io lo posso far funzionare ugualmente. Dai, un disegno praticamente, si può accendere anche così, però per fare veloce tocco col dito ed è già pronto a funzionare. Quando si fa il senso, capito? Si accende subito all'istante e va benissimo. Ma questo è bello, poi fa bella a doppia telecamera, quando per fare la fotografia ad esempio, a doppio occhio per la fotografia, ha una larghezza di un'espansione laterale sia da una parte che dall'altra, è anche profonda, anche davanti, in lontananza, fenomenale, fa delle bellissime fotografie, ma belle, belle, belle. Anche da vicino puoi fotografare una cosa grande, ma io parlo una cosa grande come per dirti una casa, una gamma, anche da vicino. Se tu ti metti per dire, non so, a distanza di 1,5 metri da un armadio di camera a letto, ad esempio come il mio, che è grande 3,10 m per 2,65 m, te lo prende tutto tranquillamente, a differenza di certi telefoni che ti devi mettere lontano, ti devi mettere, se no non ci sta nell'inquadratura, no? Questo invece ha la doppia camera, ed ecco che è per quello che riesce a fotografare tutto così, è molto ma molto chiaro, molto bello. Vabbè, non la si può fare a lui, questa regala non mi figura. Tutti veramente, tutti i telefoni me li ha tutti regalati mia figlia, ai compleanni, a Natale, tutte queste cose così, ho graziato, ripeto. La sono io, c'è la doppia telecamera, già ne ha dei costi, è bello anche il video, e funziona benissimo. Anzi, ho comprato anche quella tale che l'ho fatta, c'è una settimana letta, l'ho fatta dove c'è la telecamera, e un quadro per esempio da Roga fino al Santo. La foto me la fa a 2 metri di distanza, capito? Ho comprato quella a parte e allora già funziona bene, fa delle belle foto, riprende benissimo, abbuglia, è un buon buco questo che c'ho io. E poi ho anche il tablet che posso usarlo anche come telefono, anche quello, il tablet è grande. Tablet è grande, è più di un palmo, tu immagini, ragazzi, è un palmo, 25 centimetri, più o meno di quella misura, alto saranno 15, 17, 18 centimetri, 25 per 17, là, più o meno, 25 per 18, più preciso adesso non lo so, però anche quello poi lo parliamo, quello è un cinema, lì posso vedere tutto, tutte le televisioni del mondo. Posso vedere che poi metto un filo e l'attacco alla televisione grande della sala, via di 44 pollici, e vedo ad esempio le partite di calcio, li vedo grandi, ripeto. E tutti i programmi, prende tutti i canali Rai, tutti i canali Sky, tutti i canali Dazo, tutti i canali stranieri, tutto il mondo, prende tutto il mondo. Calcio, pugilato, ciclismo, motociclismo, tennis, pallacanestro, rugby, qualsiasi sport, tutti i canali ci sono, lo posso vedere in italiano, commento, lo posso vedere in tedesco, lo posso vedere in spagnolo, lo posso vedere in inglese, in francese, e così via. Il tablet è meraviglioso, è la televisione praticamente, anche quello è molto importante. Infatti, se voglio vedere ad esempio un programma che sto guardando la televisione, siccome è leggermente ritardato rispetto al programma della televisione, ma ritardato di qualche fotogramma, e ti sfugge una parola, accendi un tablet e lo senti di nuovo. Lo stesso film è al momento che è in diretta, però essendo sul tablet magari è in ritardo che so io di un minuto, 30 secondi, un minuto di ritardo, la lo stesso programma, capito? Dunque, no, è interessante, molto interessante. Marco, sei ritornato? Marco sta guardando, sta controllando gli aggiornamenti. Anche io ce l'ho il tab, perché me l'ho portato in campagna per non scendermi il computer, perché era più piccolo, più maneggevole. Però a Babila già rimunito, ha rombato il mobile e sono dal po' che non lo sto utilizzando. Oggi la tecnologia segna un anno sempre in vintenni, sempre migliorando. Ma tra una diecina d'anni pure macchina a benzina non ha raggiunto tutta parte via e a pannelli solari a paraggi. Sì, ma è così, grazie, infatti è così, tutto elettrico, ormai funziona tutto con l'elettricità, o con la batteria o con l'elettricità, sì, ma è così. No, e poi ad esempio nel tablet mi sono messo anche CB Talk, quando io parlo su quei canali lì lo parlo col tablet, intanto mi sembra più bene, si sente meglio, l'inquadratura della radio o trasmittente è molto più grande. Tutti i nomi che ci sono, rubriche, parlavari, è tutto più grande. E allo stesso tempo non sforzo il telefonino, perché il telefonino, la batteria si consuma molto, ma molto prima del tablet. Il tablet è grande, la batteria è più umana e dura almeno 3 o 4 volte più di quanto dura il telefonino, la batteria del telefonino. Anche se lo sto usando poco e niente il CB Talk, però ogni tanto già entro, grazie, e ci parlo, ma vabbè, 2 minuti da voi mi stanco. Qualche volta trovo anche a Graziano, a Antonello Pomponio trovo, oppure trovo a Giuseppe Leoncino, oppure qualche altro su quel canale lì. Alle volte trovo anche Antonio Bombolo, con Pierpaolo, trovo, il padre, quelli sono di solito sempre sul canale 1, nella versione CH, però è nazionalizzato. E dunque mi ha dato, già mi affaccio anche lì. Anche io già attendo ogni tanto, la mattina, qua sul sabato, certi canali ascolto, parlo, dico qualche mattina, e poi rimango in ascolto, no, se non mi ha dato che ha ammazzato un giro e me l'ha presa. Oggi con la tecnologia i malattini stanno tutti sparendo. Lo so, il malattino ormai diciamo che è quasi abbandonato, quasi tutto abbandonato, ma comunque quando c'è propagazione già si sente sempre qualcuno, io anche da poco ho fatto dei collegamenti con la Bosnia, con la Germania, col Portogallo, con la Spagna, con la Francia, insomma un po' tutti, sempre con questa antenna che ho, che è sempre allo stesso posto, bassa, ed è una antenna autocostruita, tipo canna da becca, perché l'altra me l'ho tolta e non l'ho più piazzata, ma sto qui a 2 anni con questa antennina, e come vedi funziona bene, me la sono autocostruita, una canna da becca, un pezzo di vino, e va giù l'antenna. Oscilla molto, quando c'è vento oscilla moltissimo, però non si spezza, va benissimo, grazie. Anzi, me ne gioco bene, burlata. Così se si trova lì, si va di burlata pronta subito. Attaccata ci vogliono 5 minuti, perché se no è terrato. Non è nel posto dove avevo prima la manto, però, che era roba di 6 metri più in alto. Questo qui è basso. Tu mangi dal pavimento del terrazzo, va giù, se no un metro e venti di palo, non di più. Dunque va benissimo. Poi ho visto che funziona molto bene, su tutti e 400 canali, e da giù la gatta, ma me la dato e basta. Ammazza la perugia, ammazzati da sopra. la Carabucci, fateci bene lo stesso. Tu non è che sei riuniti attaccato al baratto. Dunque, bisogna fare il buco con vista. Va benissimo. Ragazzi, vediamo se c'è Marco, ci sei? Allora, ero al telefono. Al telefono a tasti, il telefonino piccolo, no? E qua si, credo che si stia aggiornando, adesso vediamo se funziona pure, che non si sa mai come va a finire, no? E tutto lì. Uff, questi telefoni. Ti volevo chiedere, Giulio, ma quello grande che dicevi tu era il Motorola 8007 oppure 8009? Il numero non lo ricordo, però Motorola, sì, Motorola. Guarda, a me è rimasto un Motorola 8007 che se trovassi la batteria funzionerebbe, solo che c'ha le plastiche tutte spaccate, no? E praticamente prima di telefonare devi aprire il coperchietto che copre i tasti, la tastiera e alzare l'antennino. Quello era un cavallo da battaglia dell'epoca, costava anche una follia a me per quello che... e potevi solo telefonare. Forse esistevano anche gli SMS all'epoca, ma non me lo ricordo nemmeno. Sì, ci sono. Sì, ma io, no, quello che ho io è direttamente con la tastiera, naturalmente la puoi bloccare, no? Perché sennò non andrebbe bene, la puoi bloccare. No, ma la mia, sì, ma quello la parola è mancata TIM, è mancato. Quello lì era stato un primo regalo, e ti spiego. Siccome io 25 anni fa, dai, ho cresimato un mio nipote, ho cresimato, no? E quello me l'avevano regalato come bomboniera, me l'avevano regalato, e ce l'ho sempre, sempre funzionante, e funziona benissimo. Nuovo, nuovo, sia ben chiaro, a tutti ce li ho nuovi, nuovi io. Poi ho due o tre con lo sportellino, che si apre e si chiude con lo sportellino, allora solo uno, due, tre ne ho con lo sportellino. Poi ne ho uno con lo sportello alla slitta, quella slitta. Poi ne ho altri tutti quanti a tastiera libera, sempre bloccante. Poi l'ultimo che è, oltre a quello che mi ha regalato mia figlia, che è no, 3 mesi fa, anzi, che 3 mesi fa, di aprile, il 29 aprile, il mio compleanno, perché ho fatto il conto 2 mesi fa, nemmeno 2 mesi fa. E poi ne ho uno che l'hanno dato a me, i miei fratelli, quando è morta mia madre, abbiamo diviso un po' le cose di mamma, abbiamo diviso, e il telefonino se l'aveva preso un mio fratello, un giorno mi ha telefonato, lo vuoi il telefonino di mamma, dammelo, e quello è il telefonino per il vecchio, per così dire, perché ha il pulsante allarme, in poche parole, tu ti registri un numero, se per caso una persona anziana, perché mamma aveva 95 anni, era registrato in quel modo, c'è un tasto dietro, schiacci quello e suona, entra in allarme e ti fa partire la telefonata a casa di un figlio o una figlia, capito? Era così, ma io non lo uso così, però ce l'ho io adesso e lo sto usando proprio in questo periodo, lo sto usando. E ogni tanto io questi telefonini li tolgo, li carico la batteria proprio per non andare la varia, eccetera, eccetera, e ripeto, e funzionano tutti, ma ne ho una decina veramente, sul serio, non scherzando. Capito, Marco? Ehi, ehi, no, magari i nostri, quelli che abbiamo accantonato, sono rotti. Rotti, almeno parlo di quelli a tasti, poi mamma ne ha sfasciato un sacco una sporta, o li cadevano, oppure li finivano nell'acqua, un po' così dai, ne ha sfasciati parecchi, no, io ne ha sfasciati anche miei, telefonini sempre a tasti, piccolini, no, senza pretese, tipo Motorola, piccolini, poi lei non sa usare smartphone, ma poi non sa leggere i messaggi, non sa leggere le chiamate perse, niente, a malapena sa premere invio e chiusa, e c'è invio chiamata e chiudere chiamata. Vabbè, va bene lo stesso, intanto tutto sommato, il telefonino chi lo usa veramente sono i giovani. Io già lo uso, la verità, lo uso sia per telefonare, per ricevere e anche per essere WhatsApp, molto WhatsApp, lo uso anche le targhe, eccetera, eccetera. Io su WhatsApp lo uso tutti i santissimi giorni, ma per ore lì, per ore, ore, ore, fino alla mezzanotte, tante volte anche fino alle 2 del mattino, perché non faccio altro che stare con mio fratello, che lui lavora e fa dei turni, anche dei turni di notte, e allora così per fare compagnia parliamo un po' di tutto, soprattutto di sport, calcio, eccetera. E dunque, anche perché io la notte non è che dormo molto presto, dormo sempre minimo, quando è presto, presto, presto è mezzanotte l'una, quando è presto, se no possono essere addirittura anche le tre, tante volte, perché magari sto al telefono o chattando e guardando la televisione, e il tempo passa, passa tranquillamente. Avanti, grazie. Vabbè, però, avevo un lì, si cosa mi fai da qui, si la fanno lui, si da museo, altro non mi ricordo, che è che l'ho letto su internet, se li ritirava, si rimarava buio, altro non mi ricordo quanto, i telefoni vecchi di epoca passata, non mi ricordo piena. Tu pensa che l'altro giorno con quel telefonino ho cancellato un roba di 130 fotografie che c'era, di posti turistici, eccetera, eccetera, tutte cose che mi avevano mandato loro, io, o Marco. E ce le avevo in memoria, ce le avevo in galleria, no? Ce le avevo. Poi avevo una quarantina di foto fatte da me, anche soprattutto di roba elettronica, di antenne, di regolamenti CB, regolamenti radioamatoriali, frequenze, canali, sia CB che LPD che radioamatoriali, tutte queste cose qua. L'altro giorno l'ho preso e ho cancellato tutto. Boh, basta, non voglio più sapere. Anche per non consumarmi troppo la memoria del telefonino, anche se il mio telefonino ha 36 giga di telefonico di memoria o macro, per cui vedi bene che già ne ho la voglia. Avanti, e poi per l'altra cosa ne ho 7 giga per la cosa, come si chiama, dalla gestione telefonica. Vai Marco. Ma tu quando parli di memoria dello smartphone, a cosa ti alludi? Ovviamente alla RAM o alla memoria interna? Scusa che mi sono sbagliato, sono distratto un po'. Mi ha cambiato varie impostazioni, vabbè, ha cambiato la grafica, solite cose. Dimmi, cosa stavi dicendo? Quanto, come se fosse l'hard disk, quanto ne hai detto? 35-36 memoria interna, di gigabyte. E poi di megabyte ce ne sono tantissimi, non so quanti, però ce ne sono tantissimi. Allora, 32 sicuramente, perché era 4, 8, 16, 32, 64 è a salire, no? E la memoria RAM quanto è? 3, 4, 5... Registrato, non lo so, o quello non lo so, però non lo so che ce n'è tanta, Marco, non so, non so dire quanto, però ce n'è tanta, perché io ripeto, lo uso molto, e poi tu pensa che solo di messaggi tutti i giorni faccio intorno ai 120 messaggi di WhatsApp, più o meno, perché ricomincio per dire dalle 4 di sera a parlare con mio fratello ogni tanto, fino magari anche alle 2 del mattino. Che ti puoi immaginare, riesco a fare anche roba di 120-130 messaggi inviati da WhatsApp, e poi li cancello tutti in una volta, tutti in una volta li cancello pure. C'è stato un break, avanti. Ciao Giulio, là Luca sono. Sto provando un'antenna, sempre nel QTH da 25, come mi ascolti? A bomba Luca, a bomba, ultimamente bene, ma davvero, però non a buffonete, davvero. Ok, dai, tu adesso arrivi benissimo, non c'è problema. Marco, avanti, come mi ascolti? Aspetta, guardo lo Smith, la radio è buona comunque. Guarda un po', 8-6-8 di segnale, poi non so se il mio smitter è un po' avaro, guarda un po'. Tu sei 8¾, modulato 9, modulazione ottima. Vabbè, là, già ho risolto comunque, guardate l'auto costruita, già va. Di vulcanizzante, lì dove ci sono le saldature, è una vecchia di un'antenna, dai, stazionarie 1 e 1, 1 e 2, dai, modulati. Va benissimo Luca, qui da me Santiago 7, però la radio è a bomba, va benissimo, finalmente riesco a sentirtela, e tanti voi non ti inviano, me la zia Grebo, gli altri ti sentivano lì, nella zona della Feroce, e io non ti sentivo. Di bruciare il baracchino così, dai, 1 e 1, 1 e 2, dai, modulati, poi ci mettere, adesso sono non più di 1 e 3. No, ma sicuramente va bene, e poi se l'hai fatta vuol dire, tu te l'hai fatta, te l'hai fatta fare. No, me l'hanno costruita, dai. Ok, va bene, Santiago 7, te lo sto dicendo, oh, la radio è chiarissimo, 5 è perfetto, come quando ti sento da casa, uguale, alla stessa maniera. Ora stai usando lo stesso baracchino o un altro? No, questo è il baracchino che usavo a casa, capito, dai, un po' con l'MB+4. Ok, va bene, te lo sto dicendo, la stessa radio, uguale, identica, senza nessuna differenza, va benissimo. Il segnale frega, credo, il segnale, ma lo sai tanto, anch'io ho l'antenna bassa, per cui anch'io ho un dipolo, per cui se la metto al posto suo, l'antenna magari potresti anche guadagnare, che so io, altri 10 punti S di sicuro, non, perché io ce l'ho molto bassa, ce l'ho nel terrazzo, con 1,20 m di coso, una canna fresca ho costruito, dunque molto bassa, con 1,20 m di palo dal terrazzino, se puoi immaginare. Se la dovessi mettere dove c'era prima la Matoma Turbo, sono sicuro che guadagna almeno 10 punti S, come minimo, se ne sono più che sicuro. E allora, sono contento, là, meglio così, ma ho risolto, qua non devo fare altro, rimane così, purtroppo no. Se da te arrivo 7, da un'altra parte arrivo 3, non ci posso fare niente. Purtroppo l'antenna è quella e così rimane. Avanti Marco, riprendi. Ehi, hey, you! Sì, mi, grazie, mi senti, sì. Ehi, a bomba essa, e tu a me senti a me. Mettiti la scala! Vai Marco! Tu pensa che a me Graziano arrivi 9+15, 9+20 modulati. Graziano arrivi fortissimo qua. Molto bene, molto bene. Avanti Marco. Scusate se sono un passente, ma sono preso qui dalle impostazioni, dalle novità. Addirittura credevo fosse solo l'interfaccia grafica cambiata, invece mi ha messo Android Oreo, prima c'era l'8 punto qualcosa, quindi qualcosa è cambiato, chissà che sia più fluido. Beh, me lo sto studiando, dai, rimango in bianco per un po', dai, riprendete voi, vai Luca. Ok, riprendo io, Luca ti ha tentato, Luca, bloccata lei questa antenna. Luca, dove l'hai installata? Sempre nel solito posto, nella ringhiera? Luca non risponde, forse al telefono, là. Vabbè, già ne prenderà dopo. Ha fatto bene, la macchina riesce a cuotarlo, grazie a te, ma non lo sentivo proprio, ragazzi. Era una cosa, guarda, nemmeno arrivava di segnale, nulla. Almeno adesso, Santiago 7, ma la radio è fortissima, è a bomba, va benissimo. La macchina riesce a cuotarlo, era un anno così. E dove il tempo tante volte, ma perché non si va l'antenna, ma perché non si va, finalmente ha realizzato questa antenna e allora va bene così, sono contento per lui. Giulio, vado a fare l'insulina alla zia di Paoletta, la riprendo dopo. Va bene, grazie, intanto saluta per la Paoletta. Va bene, vediamo se riprende Marco. E adesso aspetta che c'è il giocattolo nuovo, sono un po' preso. Naturalmente, sai quando ti abitui alle impostazioni di un telefono, no? La grafica e tutto, adesso mi trovo un po' spaesato, ma alla fine è simile, la stessa cosa, cambiano le forme delle icone, qualche impostazione, così. E vabbè, comunque è aggiornato il sistema operativo, meglio così. Meglio. Meno rischi per la sicurezza e eccetera. Ok, beh certo, no, quello già va bene, lo sappiamo, più o meno sempre la stessa cosa, però è bello anche conoscerlo, se non, ma bastano pochi minuti quando c'è, fai un giro di tutti i tasti eccetera, già lo capisci subito, non è un problema. Va benissimo. Vediamo se ne prende Luca. Luca se ne è andato a innamorare, non c'è. vabbè, Graziano si è sentato, si deve fare la terapia e dopo già rientra. E così è Marco. E sono già le 7:30 circa, 7:28, e nessuno entra. Ha bisogno di fare solo Graziano, che hanno allargato il cimitero, sono tutti cattivi musti, No, eccomi giù, stavo mettendo vulcanizzante nell'antenna, dai. Lo hai messo così provvisoriamente, puoi fare una cosa fatta bene. Vado sempre bene, sì? Grande, te lo sto dicendo Luca, capita. Era una che ti basi sentendo come si deve. No, anche perché ero abituato a sentirti sempre bene a te, capi. Se mi dispiaceva, non sentiti. Lascia stare il discorso segnale, non se la putti nuda. Ma almeno la radio deve essere di quella di sempre. Ed è ritornata quella di sempre, infatti. Stavo dicendo, questo antennino praticamente dove l'hai installato sempre allo stesso posto dove la prima, cioè in quella ringhiera. Sì, allora cosa devo sentire tu? Aspetta un attimino, sì Giulio. Ah, 1 e 1, sono 1 e 1, mi ho messo gli occhiali, 1 e 1 qua nel 10. Sì, e beh certo, no, ma già si sente che va bene, Luca, già si sente, capita. Se no non sarebbe stato così, con una radio bella pulita, eccetera, eccetera. Perché la radio è anche bella pulita, non senti il suo fustino, niente. Va bene, è la tua modulazione, quella di sempre. A parte, ripeto ancora una volta, il segnale, ma puttiamo il segno di un segnale. È interessante sentirsi. Ma io ho staccato il rosmetro, ho messo anche la diretta. Prova, sempre lo stesso. Sempre lo stesso, va sempre bene, non ho problemi. Andare sempre bene. Il segnale è sempre quello, per cui se non smetto, visto considerato che è un antennino, è meglio che te lo tieni attaccato, così ce l'hai sempre sotto occhio e non ti può succedere mai niente. Lo so, infatti. Avanti, Graziano. No, Graziano è andato a farsi l'insulina e ritorna dopo. Ritorna in frequenza, ritorna dopo, più tardi. Capito Luca? Sicché visto considerato che non ti cambia niente, nemmeno il segnale, te lo puoi tenere anche inserito, tanto non sarà così ingombrante. E allora come l'hai sempre portata in mano. Se dovesse cambiare il valore del ROS, lo vedi subito all'istante e puoi provvedere a sistemare la situazione. Tutto lì. Devo controllarlo, no? Per vedere se sta andando bene. Ma comunque già me ne accorgo dallo Smith lo stesso. Avanti, ma io mi sono appena rientrato dal mare, adesso mi tocca farmi una bella doccia, mi tocca. Mia ruba. Sono un caso, ma ricordi a me, bello, il mare agitato, venticello si stava benissimo. Arrivo lì alla Budibuti, Sant'Antonio mio, 35 gradi ci sono. Ah, quindi in spiaggia era vivibile, dai. Peccato per il mare agitato, vabbè. Spero che sia anche più forte di ultimo. Mi sembra che domani sale oltre i 40, 42, perlomeno stando a quella al meteo che ho sentito stamattina alle 7:30 su TG Sardegna, il giornale della Sardegna, dai, alla televisione. Dovrebbe salire anche a 42 gradi, non lo so se è a Sardegna, però ha parlato a nord Sardegna, nel nord Sardegna, nel Sassarese anche adesso, anche a 42 gradi. Non c'è da scappare, guarda, domani il caldo sarà ancora più forte di oggi. E allora già lo ampliamo il cimitero. Eh? Ma cosa c'è? Sanremo sul ponte amatoriale, stanno frusciando a oltranza, frusciando canzoncine. Sul canale amatoriale, dove? Su quello nazionale, 27555? No, 432525. Adesso ha smesso, ma era poco fa. Così per un bel po' è andato avanti. Sembrava ci fosse l'eco quasi, va? Forse ho sbagliato io. Ah, ho capito, stavi ascoltando in PMR, stavi ascoltando. Ho capito, sì sì. PMR? No, l'altro giorno, quando è, un paio di giorni fa, che la frequenza 4.33, 4.33 fino a 4.34 si può sempre utilizzare, si può utilizzare, cioè LPD. È interessante utilizzare sempre la, la potenza quella bassa, è ovvio, però non puoi usarlo, però a differenza di qualcuno che dice non si può usare, che sono frequenze radio amatoriale, no, si può usare, per i primi si può usare, per i primi 20 canali, però ripeto la potenza deve essere sempre quella, no? Quella che noi conosciamo benissimo, se tu non puoi trattare antenne, non puoi trattare potenze, non puoi trattare niente, devi usare il portatile con la sua antennina, eccetera eccetera, niente di più. Certo, o Marco. Va bene, Luca, avanti. Sì, no, ma non solo i 20 canali, tutti e 69 canali. C'era stata recentemente una circolare ministeriale che faceva capire che si possono usare tutti e 69, purché sia un apparecchio a 10 milliwatt, perché con 10 milliwatt non arrivi da qua alla strada e quindi non rischi di disturbare nessuno. Poi vabbè, chi si mette a veicolare 50 watt, allora la colpa è sua, per dire, no? Beh, certo, appunto, è quello, siccome ne abbiamo discusso tantissime volte, l'LPD non si può utilizzare, ma adesso si può utilizzare, l'interessante è mantenere le regole, è quello che è importante. Poi, per il resto, dal 4.33 fino al 4.34 si può utilizzare e sono di libero accesso per chiunque, sempre con potenze minime, è ovvio. Sì, ma quello era implicito, Giulio, io sapevo che si poteva usare, sempre a patto di usare potenze legali, antenne fisse, perché se no, già lo sai, è un'altra cosa quella lì, baobao, antenne esterne, quella è un'altra cosa, non è più LPD. Bene, bene, bene, bene. Graziano si è allontanato, chi altro c'è qua? Doppio room, non ci sei, sarà nella vasca da bagno, immerso nell'acqua, cosa che avrei fatto anch'io volentieri, mi, se avessi avuto una piscina qua, ui. Gianni, boccheggiando stai? Gianni, se stai boccheggiando, buttati un bel trozzo d'acqua freddo sulla testa. No, non c'è. Non c'è. Ci stanno offendendo perché ieri abbiamo detto di abbassare quella radio, che era incomprensibile, fortissima, ma era assordante, proprio incomprensibile in quasi tutte le parole che diceva. Diciamo che quella è un po' una radio da DX, e comunque è troppo eco, poi l'ha corretto e allora era perfetto, era appena appena percepibile l'eco quando l'ha corretto, era perfetto. Bene, stanno, lo senti, pigliarla quando lo faccio sentire, stanno sempre giocando col ponte, premi, attacca e stacca, attacca e stacca, attacca e stacca, sai, pigi portante, aggancia il ponte, stacca il ponte. Il frusciatore di prima, mi. Purtroppo magari non è radioamatore, magari è qualche cipitto che gioca così. Sicuramente qualche imbecillo. Che frequenza stai ascoltando? 432, hai detto? 525. Non so che ponte sia, non conosco le sigle di ponti, l'ubicazione, nulla. Ok, adesso lo accendo io, il ricevitore, vediamo un po'. Se lo sento anch'io, se parte e se fischia. E continuami. È che non si può lì, viene voglia entrare e dire, ma ho finito di brusciare. Sì, comunque la sentirei perché è un'uscita a ponte quella. 432, 525 hai detto? Ma quello ha già smesso adesso, va a ondate, e il lugaggio è me, Giulio, il caldo è. Vabbè, adesso l'ho sintonizzato lì, vediamo se lo sento anch'io. Vabbè, no, io per me adesso vuole essere sentito, è che l'ha acceso più. Non è che mi entusiasma più di tanto. Anzi, me lo volevo usare come interfono qui a casa, ne volevo mettere uno giù in tavernetta e uno qua in zona alta della casa, proprio per parlare con la famiglia stessa, quando mi chiamano o che io chiamo loro, visto che ce li ho due. Ma DLPD proprio? No, PMR, anche PLPD, anche l'LPD ho io, cioè per quello, io ce li ho, tutti e due ce li ho. L'LPD ha il suo perché comunque, perché con 10 milliwatt puoi parlare all'interno di un appartamento, da un'estremità all'altro, da un piano all'altro, senza che ti sentano, perché boom, farà 50 metri al chiuso, poi non va oltre, capito? Ha il suo perché anche l'LPD. In PMR già cominciano a sentirti più lontano. E come ti stavo raccontando, Giulio, all'epoca, negli anni fine 80, inizio 90, non esistevano gli LPD, PMR, c'erano questi apparecchi che poi erano Maxon americani, sui 49... Ah, telefono, un attimino. Sono arrivato! Ok, grazie. Purtroppo devo fare l'insulina a chiesa, ma vedete che non fa ancora. Allora la faccio io. Ma tu da solo te la fai? Io me la faccio io, no, la zia di mia moglie sta a fianco a me, non lo so soffiare. Te la faccio io. Ah, ho capito, sì. Ah, che lì è quel problema lì. Vabbè, c'è la Luca, già l'hai sentito poc'anzi a Luca, che stavo uscendo molto bene, vediamo se è ritornato. Luca, ci sei ancora? Sì, dai, sono passato un attimo alla 23 che ero un controllo, mi hanno detto che vado benissimo. Mi ascolta bene anche Marino di radio, però mi sa che a quanto ho capito di segnale no, poco segnale, vabbè dai, chi si accontenta gode, di più non posso fare, magari mettendola sul tetto la musica cambia ancora di più, ma purtroppo non si può mettere e non mi interessa metterla, non voglio creare problemi a nessuno, capito, meglio evitare, la lascio lì dov'è e non ce ne può fregare nemmeno. Grazie a tutti, mi ascolti, sì. A bomboletta, ma cosa di là tutti di sul tetto, se esci bene lì, fatti che vado e va, ma l'altro capo, lasciala lì, e intanto già stai uscendo fortissimo, sta a segnare, fregata, l'importante che esci bene, cosa che sei a bomba, e laggiù già arrivi lo stesso molto forte, sarà confermato. Adesso quando senti Antonello o qualcun altro più lontano che ti conferma e anche vedi cosa lo fa Marco Giulio è stagionato e ti sente bene. È positivo, vabbè, io mi aspetto, vado a farmi una bella doccia che sono tutto mezzo bruciato di nuovo e mi rinfresco, c'è un caldo, vai, terrazzo di Simone, Simone, va, sto sperando, dai, ma che l'ascolto, se ci siete dopo 10 minuti 4 ore, bene, se no mettetevi salutati, dai, ciao. Ok, ciao Moluca. Sì, no, esce bene, dai, va bene. Te la cosa della puttana di burla sul tetto, lasciala lì che già ti ascoltiamo bene. Già ti sentono tutti così, no, non c'è problema. Io ripeto, Santiago 7, radio a bomba, e Modulati addirittura anche 8, cioè Santiago 7, Modulati 8 e radio a bomba, chiara, bella, pulita, per cui va benissimo così. Va bene, buona doccia, non sta legato però a me. Allora, grazie. La parola va gente, con l'occhietta. ma arriva abbastanza forte, vabbè vicino a me ti lascia la luce, ti mazzaro, tu sarò giù la mano. Però se va bene che tu lo senti bene, sei lì alle fuse, Marco in città, metà ai palazzi, e praticamente c'è la conferma che arrivi dappertutto, se stai dicendo bene. Io voglio segnare cosa di là, risultati che ti interessano. Figurati se tu non lo fai di due, fai due o d'aria. Tu pensa che mi stai arrivando 9 più 15, ma durate 9 più 20 mi arrivi. Ripeto, prima mi arrivava il 9 più 20 pieno, ma quando avevo l'antenna alla mantova. Adesso che ho questa autocostruita, di meno, ma comunque va sempre molto bene. Ma considera che io c'ho anche il capo in due pezzi, c'ho il bussolotto e il raccordato, perché lo facciamo non si arriva al sito, lo devo cambiare, e c'ho dispersione uno e poi c'ho anche due di stazionari, due e mezzo. Ok, vabbè, se lo cambi va anche meglio, certo. Ti compri il filo, ti compri, te lo cambi, piano piano, adesso il tempo è buono, lo puoi fare, quando ne hai voglia naturalmente. E così eviti anche di avere queste stazionali. Sì, stavo ascoltando il coso. Marco, sto ascoltando il ricevitore, sto ascoltando con la frequenza che mi hai dato. Arriva la bomba, qui arriva la bomba. Antonello, tu sì. Sì, buonasera. Ciao Antonello, c'è la Luca lì poc'anzi che magari avrebbe avuto bisogno di un controllo, perché ha messo l'antennino sempre sulla ringhiera, però adesso arriva molto bene qua. E dunque magari se sei stato prima avresti potuto dare il controllo. Adesso è sotto la luce, non so se puoi riprendere. Va bene, stavo dicendo, sto ascoltando quella frequenza lì, 432 e 525, la sto ascoltando sul ricevitore. Anda a me, arriva la bomba, puli i chili. Avanti, entra a me. Sì, a positivo, non sono niente a me comunque, per ascoltare, cava. Aumenta un pochino la radio però, perché c'è l'eco, ma aumenta anche il volume. L'eco va bene così, però se aumenti il volume è ancora meglio. Avanti, grazie. Ehi, ciao Pompeo, ben sentito. Ehi, aumenta un po' il volume della voce, l'eco va bene, ma la voce sei basso. Sì, devo controllare la radio. Già, i problemi che lo stavo provando di funzionare lei, sai che stavo facendo un po' di cazzo perché che funziona. L'eco già funziona bene, il volume della voce, la tonalità è bassa, lascia desiderare, adatto ti intendo, capito? Questo passaggio non l'ho copiato, Giulio cosa hai detto? Stavo dicendo a Antonello di aumentare la radio, perché l'eco sembra che va bene, però non c'è radio, è troppo bassa la radio, Antonello. Quindi tu l'eco casomai prova solo a parlare anche con quel volume e ti sentiamo di sicuro. Vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La radio è bassa, Antonio, non è la radio tua, c'è troppo eco, cambiami l'eco, almeno quello studio, perché l'eco è più forte della radio. Vada a fare, 1, 2, 3, 4, 5. Grazie, tu cosa dici? Io non lo sento bene in radio, la verità. No, la tonalità della voce lascia desiderare, è mattina, appena tu pure viene a coprire l'effetto eco, non lo so, però adesso dovete controllare tu. Ah, ha detto che deve controllare, ecco, per quello, perché io non ho capito quello che diceva, perché c'era troppo eco, cioè l'eco era più forte della radio, vabbè, comunque, Natale, provvedi, vedi tu di sistemare la radio, perché non è buona, non è buona, va bene, Marco, sei rientrato? Non si sente niente, Antonè, non c'è la radio. Niente, Antonio, non c'è radio, niente. È la voce più bassa, ma bassa che non si capisce niente, non si sente niente. Sentivo solo basta, non sentivo altro. Vabbè, riprendi, grazie. Ma adesso perlomeno mi sembra di aver capito così, se lo sta controllando, Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, parecchio. Così già ti sento, fai un altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così ti sento benissimo, e per la percantella. Tu Giulio, come l'hai copiato? Adesso già si sente, adesso già va bene, però potresti migliorarla ancora un po'. Se hai aperto la LC, continua ad aprire, perché adesso la radio si sente e si capisce anche. Non mettere l'eco, lascia com'è, e se puoi aumentarla ancora meglio la radio. Sì, sono collegato a casa, bello quello, che certo non funziona. Dovevo controllare il palazzino, capito? Dovevo aprire, ma non so bene. Capito, mi hai cappa. Ok, ho capito, Antonio. Lo fatti anche il segnale se è basso, non è il tuo segnale questo. Sì, Santiago 9 appena. Tu mi devi arrivare ai 9-10 almeno qua. Buoni. E va bene. Bene. Vediamo se è rientrato Marco. Marco, il sole ti ha fatto male. Grazie, è preso dal telefonino adesso Marco. Stava scoprendo i vari programmi che ha il telefonino. Adesso la curiosità è più forte del barattino, Giulio. Antonello, come mi senti in quelle zone tue? Già ti sento bene, a voglia. Fate caruccia. Allora, scusate. Giulio, riprendi, altri 5 minuti che poi vai a farmi l'insulina per me. Ho capito grazie. Anch'io fra 5 minuti poi devo scendere anche a cenare. Per cui sono già le 8 meno 6 minuti, meno 7 minuti, perché siamo vicino all'ora di cena. Vabbè, comunque, stasera Gianni non è entrato. Di solito entra la sera Gianni. Di solito, nemmeno Claudio, sono già parecchi giorni che non l'ho più sentito. Si vede che se ne è andato a mare, se ne è andato ad abbronzarsi le chiappe chiare. Quello in piscina, altro che a mare, la piscina che c'è a mare ci va poco, c'è lì il mare, capisci? Vabbè, là, adesso chiudo. Hai visto Giulio, mi tocca fare anche il veterinario. Ce la risentiamo. Ciao, buona cena a tutti. Ciao Marco, se mi copi. E buona cena a tutti quanti, quelli che sono in ascolto. Ciao Lamperello, un bacetto. Alla prossima, io chiudo che me lo fai in suina. Riprendi Giulio. Ok, ciao, grazie, ciao. grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo. Ma fatti sentire su questo canale però, non fatti desiderare, no. Vieni su questo canale, questo è il canale dei furti, il canale dei furti, furti di frequenza, voglio dirmi, no, non d'altro, furti di frequenza. Per cui va bene così, va bene, dai. E anch'io fra un po', adesso per un po' faccio la chiamata a Marco se c'è di nuovo. Marco, ci sì. Ok, ciao, alla prossima. Ok, chiudo anch'io, ciao a te, ci sentiamo alle prossime, dai, ciao Graziano e ciao Marco se stai ascoltando, alle prossime, domani ci coincide, ciao, chiudo. Via, ciao, ci sentiamo, alle prossime, ciao Graziano, ciao Giulio.